America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. The S&P 500 surged to a record close. Un nuovo record, l'ennesimo record di borsa dell'S&P 500 la settimana scorsa, venerdì. L'aumento è stato minimo, però si è raggiunta quota 1878,04, un livello che conferma che il toro in borsa continua e soprattutto che continua ormai da 5 anni. Ieri, 9 marzo, è stato il 5° anniversario del mercato del toro. Che cosa capitò il 9 marzo del 2009? Beh, capitò che dopo una successione di crisi, prima quella immobiliare, poi quella delle banche, gli indici di borsa erano precipitati ai loro minimi e il 9 marzo 2009 lo Standard & Poor's era, pensate, a quota 666. E qualcuno scriveva, era il simbolo del diavolo e dunque insomma non è che portasse, come dire, molto bene. Eppure da quel livello che sembrava dovesse portare all'inferno, la borsa poi ha rimbalzato. Quota 1878 vuol dire che l'aumento in questi 5 anni è stato di circa 175%, superato soltanto dal 228% che si è registrato in un altro quinquennio fra l'82 e l'87. Questo cosa significa? Beh, tradotto in termini concreti, significa che ci sono 16.000 miliardi di dollari in più nelle tasche degli americani da allora rispetto adesso. Dunque, la percezione di benessere e comunque di solidità di capitale è certamente migliorata. Restano naturalmente degli elementi macroeconomici. Janet Yellen, nuovo presidente del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve, il 18-19 marzo, quindi fra una settimana circa, deciderà di tagliare di altri 10 miliardi di dollari gli acquisti di asset patrimoniali sul mercato dagli attuali 65 miliardi di dollari. Ricordiamolo, il QE3 prevedeva acquisti sul mercato per 85 miliardi di dollari al mese, ci sono già stati 2 giri di riduzione, questo sarà il terzo e scenderemo dunque a 55 miliardi di dollari al mese di intervento. Perché? Beh, perché l'economia americana sta dimostrando tutto sommato di resistere. Le diminuzioni che abbiamo registrato relative ai mesi scorsi dipendono in gran parte dal cattivo tempo. Il dato sull'occupazione di venerdì è andato molto bene, più 175.000 nuovi salariati dipendenti, il tasso di disoccupazione è al 6,7%, insomma le cose tutto sommato, diciamo, stanno andando bene. Eppure il timore che forse siamo in una bolla, perché dopo aver corso per 5 anni, dopo aver fatto il 175%, chissà, una correzione forse può essere anche nei numeri. Ecco, io non so se questo sia un ragionamento logico, perché in realtà è vero che l'indice è aumentato moltissimo e siamo adesso su livelli record. È anche vero che l'indice era diminuito straordinariamente dopo la crisi, toccando appunto il fondo a quota 666. Quindi il record di oggi è come dire, molto elevato rispetto a quota 666. Però quota 666 c'è stato dopo che c'è stato un crollo del 56% dal record precedente stabilito il 9 ottobre del 2007, quando si toccò quota 1565,15. Ora, voi sapete che normalmente un mercato azionario su base storica del lungo periodo ha un aumento di circa il 7% all'anno. Se lo facciamo composto dal 2007 ad oggi, lo Standard & Poor's avrebbe dovuto essere oggi intorno a 2002, diciamo circa 2002-2003. Il fatto che sia quota 1878 non è necessariamente indicativo di una bolla. Però ho con me i microfoni America 24 Marco Valsagna, con cui lavoriamo gomito a gomito ogni giorno da New York, seguendo proprio finanza, economia e politica, e dunque giro la domanda a lui. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Ecco Marco, ma allora siamo in bolla o no? Perché hai sentito quello che ho detto, insomma secondo me tutto sommato questi valori possono essere coerenti con una reale situazione di mercato, dopo che c'è stata la grossa iniezione di liquidità da parte della Fed, la gente ha potuto indebitarsi a dei tassi molto più bassi, insomma la situazione di bilancio delle famiglie americane è migliorata o no? Cosa ne pensi? Sì, condivido, credo che il clima rimanga un clima di moderato ottimismo in borsa e si può aggiungere a quello che già citavi il numero quasi record di nuovi collocamenti azionari in borsa nei primi due mesi dell'anno, sono stati 42, più del doppio dello stesso periodo dell'anno scorso. Cioè 42 nuovi collocamenti in borsa nei primi due mesi del 2014, ecco, sottolineiamolo questo, è questo che dici, vero? Ecco. Assolutamente questo rispetto ai 20 dello stesso periodo dell'anno scorso. In termini di capitali raccolti a Wall Street, 8 miliardi, che è un record dal 2000, cioè dagli anni dell'euforia da internet, ecco, però con collocamenti considerati più solidi, società considerate più solide. Ecco, quindi, però già questo parallelo, Marco, che tu fai, che ci riporta al 2000, quando poi scoppiò la bolla di internet, poi 7 anni dopo ci fu la crisi immobiliare. Ecco, c'è qualche elemento di preoccupazione. Adesso lo stesso Bernanke, quando fece il discorso d'addio alla Brookings, disse: forse la bolla è l'unica cosa da tenere sotto controllo. Ma sicuramente ci sono delle incognite, c'è chi si aspetta correzioni anche brusche e c'è chi teme bolle. Ci sono sicuramente alcuni multipli che destano perplessità, prezzi azionari che destano perplessità, per esempio il settore biotecnologico, fra su tutti, dove alcune spinte alla correzione, tensioni si sono già manifestate, nel segmento immobiliare pure, in prezzi anche di asset quali i terreni, dove ci sono state alcune correzioni. Ecco, quindi questo desta timore di bolla, ecco, qualche paura, anzi paure arrivano sicuramente anche dall'Oriente, dallo spettro di una crisi del credito in Cina, dove si è registrato il primo default di un bond aziendale, e visto che le autorità cinesi non sono intervenute per salvare l'azienda, ecco, questo forse non promette bene. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Morrissey ha annunciato l'uscita di un nuovo album, il primo dopo oltre 5 anni di silenzio. Titolo: World Peace is None of Your Business. La pace mondiale non vi riguarda. Sembra un messaggio costruito apposta da Vladimir Putin. Di Morrissey: Every day is like Sunday. Per ora è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.